se c'è qualche anima buona che ti risponde e dire: senta, ma per fare questo benedetto esame, la domanda la posso fare adesso per farla quest'anno o la devo fare per farla il prossimo anno? Come vi siete? Perché qua fa capire che un po' a livello di ispettorati e di piani attuativi, di come la situazione, certo se te lo devono fare per, solo per te, anche se online, sai. Mi fanno 200 domande. No, no, ne fanno 5 di domande e 3 devono essere giuste. Sì, lo so, almeno 3. Ma io provo a chiamare se mi risponde qualcuno, così ci sa per dire già fatto. Ma non devi chiamare a Cagliari? Allora, quelli che conoscevamo noi, Natali, che rispondevano prima noi, non ci sono più, né la Secchi, né la signora Panso, tutti altri in pensione. Perché dice che lo fanno una volta all'anno e c'è tempo fino a aprile? E sarebbe opportuno chiamare per vedere se qualcuno ti risponde, per informarsi sulla fase. A ottobre non ce n'è, lo fanno una volta all'anno solo. Vabbè, non c'è tempo fino a aprile, vuol dire che lo fanno a ottobre allora. Quindi, capito. Perciò chiama, chiama al solito numero, guarda che c'è anche nel sito del Ministero delle Telecomunicazioni, se non ce la fa, se ce l'hai portata di mano, dalle quel numero che abbiamo chiamato noi per l'autorizzazione generale, è sempre quello il numero, è sempre quell'ufficio che ho pitto lì via Simetto. Chiunque ti risponda le dici questa cosa, e senti un po'. No, che quei numeri io ce l'ho provato, sono stati tutti disattivati. Non so neanche, infatti stavo dicendo a Matteo, non so neanche se dipendiamo ancora da Cagliari, o se direttamente è stato preso in carico tutto Roma, perché è un casino veramente, non si capisce più niente. Ci sono tante amministrazioni allo sbando che non hanno personale. Quindi non lo so, veramente. Tutto estremamente confuso, guarda. Anche il sito del MISE non ti dà indicazioni, e quello della Sardegna che ti manda numeri di Roma. Anche uno aveva rifondito, qualcuno risponderà, insomma. Per sapere un'informazione, qualcuno risponderà, capito? Se no chiama quello su in alto delle corna, capito? Delle corna buone, insomma, nel senso delle antenne, e prova a chiederglielo, a vedere come ti devi comportare, che lui già è formato. Vediamo un po'. Chiama a lui, vedrai che ti dà informazioni molto dettagliate, perché so che capito, che è abbastanza preparato in materia, anche perché lui segue, già lo sai, tutte le cose, in sezione, eccetera, quindi se chiama a lui ti dà qualche informazione, perché gli aveva date, mi sembra Danilo o qualcuno, che voleva andare alle informazioni, anche Danilo è abbastanza preparato, sa tutto, quindi magari che non sta più entrando in radio, perlomeno io non ho più sentito. Sì, vedremo da farci, dai. Detta a dire a Natalia, io poi ci andiamo in DMR, siamo già in 3. Sì, ma tu Giulio si incazza ancora di più. Sì, sì. Così imparano a entrare anche lui. Bisogna telefonare alle 3 di mattina a lui. Addirittura. Vabbè, adesso vediamo. Comunque io me lo vedo in tarda da bui. Vai Gianfra. Ma guarda, io sono, siccome c'è scritto che c'è una reticolazione generale del ministero, qua c'ho il dirigente che è in Viale America, centro, ed è Roma, numero telefonico di Roma, come è stato accennato, quindi qua c'ho lo scritto che dovrebbe essere la Sardegna, praticamente passa tutto a Roma, quindi così si capisce. Direzione generale per le attività territoriali. qua mi porta a Svegna, ma mi manda su Roma. E il dirigente sta a Roma, quindi qua sembrerebbe che non ci sia più niente. Ma c'era un numero per poter parlare con questa gente, ma ormai cioè non risponde più nessuno, mi sembra assurdo. C'è una necessità di un'informazione, come deve fare? Vabbè. Comunque tu chiama quello là, chiami a Marco e vedrai che ti dà qualche informazione più dettagliata, Natalia. Ah, Marco, io ho capito. Sì, a Marco Scorpio chiami e lui già è preparato in materia e ti dà qualche informazione più dettagliata e sicura, capito? Magari c'è anche qualche numero di telefono. Sì, ok, allora. Ci informeremo. No, è uno che ti dà un'informazione giusta, capito? E secondo chi chiami ti rimuovo ingazzato. Lui già le sa queste cose. Capito? Va bene, siamo nel frattempo. Se senti a Danilo chiedi a lui. Lui penso l'abbia fatta la domanda, non lo so. E infatti se lo sento glielo dico. Guarda, io faccio il numero, l'unico numero che c'è è del dirigente che è a Roma. Questo numero ci sono sotto le competenze, ci sono anche quelli per questo dipartimento così chiamato, si occupa anche delle cose delle amatori, impiegate anche su altre cose, evidentemente stanno centralizzando molto per togliere lavoro dopo non ci sono più impiegati, infatti, praticamente. E infatti se tutti sono andati in pensione che ti rispondi no? Nessuno. Guarda il sito, Ministero dello Sviluppo Economico, e chiama Divisione Prima, Ispettorato Territoriale Sardegna, Vigilanza, Controllazione, Istitiva, Programmazione, eccetera, eccetera. E chiama questo dirigente e lei ci senta, c'è questo problema, qua non riesco a sapere, volevo un po', magari ti risponde ci sarà un call center, un coso di. E vabbè, là, lo chiedo anche a Marco, vediamo un po', magari Marco è informato. Se non è informato Marco telefoniamo direttamente da me. Anche perché per sapere se puoi fare domanda o se la devi fare la domanda a gennaio, che ne so, nel prossimo anno. Vedi un po', perché qua mi pare che ci siano mille campane, ognuno dice al suo. Sì, infatti. Vediamo un po'. Alla bene mela, ma questo si è coricato, addormentato. Aspetta che adesso non ho trovato un'altra. Allora, al riguardo si comunica che la scadenza di presentazione delle domande per l'ammissione all'esame di operatore sostenitore animatore è il 30 settembre 2021. Si informa inoltre che gli esami saranno espletati in data 11 novembre 2021. Questa è l'ultima che mi è capitata. E allora Natalici in una botte di ferro. Vamos! Sì, facciamo così. A novembre, bene il tempo, siamo appena a luglio, quindi hai tutto il tempo di fare la domanda e di andare anche all'esame e di prepararti soprattutto. Sì, se a novembre non è tanto il tempo mi per prepararti. Ah, finita! Dico di una sera o una mezz'oretta al giorno, dico di una bellezza del libro, guarda che ce li ho io ancora, mi sono sempre quelli di neri, quindi no, non è cambiato niente. Dico di una bella strada, le dai un ripasso alle normative e io sarei andato. Non sei stupido, sarei andato a Natalia. Facciamo così. Adesso mi state facendo rifare la domanda, mamma. Vabbè. Falla, se no ti do la perivella. Bianco che arrivo subito che c'ho la roba al forno. Che ti confermo comunque che nel mio articolo guardando l'anno 2021, va a provare, questo istituto fa una prova orale a distanza, quindi si piazza le mani. Consiste in un colloquio telematico individuale teso ad accertare la preparazione del candidato. Per superare la prova di esame, il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. L'esame viene svolto utilizzando la piattaforma di videoconferenza, online gratuita, a scelta della commissione d'esame, è presa informativa e consenso dei candidati. Viene registrato in formato digitale. Quindi infatti dice anche cosa ti chiedono, questione di natura tecnica ed una, ciascuna per le materie di regole e procedure di servizio nazionale e internazionale, regola 93 nazionale dei servizi di radiamatore radiamatori via satellite. Il candidato sceglie una delle tre buste a cui quelli che sono lo stesso somministrati per l'accettare la loro ottima presentazione. Quindi superato il candidato risponde a tre quesiti per i candidati di cui al comma 5 e a due quesiti, quindi allora il comma 5 è per chi ha le donne, quindi 3 su 5 dai, ne puoi sbagliare 2, certificazione Arex, ballo gatto, eccetera eccetera. Fai, tenta, sarà così, almeno sai come funziona. Sì, infatti. Per conoscenza ti dico che questo decreto è stato emanato in data 20.04.2021 alle ore 15.47 dal direttore generale, quindi ci avventa in tutti gli ispettorati. Sì, andrà bene Mela, adesso mi compro i libri e via. Ma guarda, non c'è neanche bisogno, perché ci sono le slide delle lezioni su molte sezioni, tra cui anche sulla sezione sul sito dell'ARI, ARI.it, fra la ricerca su Google, preparazione agli esami, patente di radioamatore online, e quindi si vede un po'. Poi sai, anche qua la fortuna, ci sono domande, io ho fatto tanti di corsi online anche quest'anno e ti posso assicurare che ci sono domande a trabocchetto, quindi bisogna stare un po' attenti alle risposte. Comunque sono solo 5 le mie, tieni presente che andavano intorno alle 30 e richiedevano, credo, alcuni corsi ho fatto del 100%, alcuni dal 60%, quindi vedi un po', qua sono solo 5, quindi ti va bene. Ti immagini che me la danno? Perché? Se parti pessimista, non succede niente, ci rimetti solo 25 più, quant'era? 25 più 16 dovrebbero essere una quarantina di euro, dai, però almeno lo fa in maniera come dire imparziale, senza dire che ti non parli a nessuno, perché tanto mi sa che queste commissioni si organizzano o da Roma o chissà da dove. Sì, infatti. E chissà che almeno questa soddisfazione non te la togli, così poi c'è tutta la fila per l'autorizzazione, che è un'altra cosa, ma quella anche perché ci hanno già assunto il suo nominativo, F0 nata Linux, un po' lungo dal punto di vista internazionale, però Ai, ai, ai. Ma pensavo che molti che ce l'hanno non lo usano più. No, la usano tutti. Ehi, non la usano né qua né là. Una volta ci hanno preso la patente e sparito. Infatti, secondo i punti di vista è anche controproducente avere la patente, perché sembra che spariscono. Ehi, quanta gente come ci ha preso la patente non è entrata più qua e poi non fa attività né qua e né là. Perché non lo sanno fare i radioamatori, a sai vuoi di lucchiare a fondo. Se mi fanno fare la tesi sulla falegnameria mi presento io, così almeno lancio una nuova idea. Bene, vada, fra, ciao. Io, no, come si dice a Tari, gente fontumata. non ho capito però la tesi in cosa la vuoi lanciare, sulla falegnameria. Perché falegnameria deve essere diventata? Sulla falegnameria, se mi fanno fare l'esame, sono facendo una tesi di falegnameria e mi danno una patente al radioamatore e vado anch'io. Ti piacerebbe? Se ognuno si tira l'acqua al suo mulino, allora è come non farne, vero Natalì? Per me dovrebbero farla sulla pasticceria. Oddio, almeno le insegnerei anche qualcosa con la gente lì. E allora, a fare i bignieri in sé. Non parlare così, Giulio, ognuno il suo. Il medico faccia il medico, il falegname faccia il falegname, il tecnico faccia il tecnico. E cosa sto dicendo io? Le insegnerei un po' di falegnameria. Cosa sto dicendo io, perché? No, che non bisogna avere pretese di insegnare qualcosa agli altri, perché gli altri possono essere bravi in tante altre cose, ecco. Ma non lo metto in dubbio, ma io sto dicendo, se loro mi fanno passare con quell'esame, guarda, sono prontissimo ad andare, e ti dirò di più, non mi compro nemmeno i libri per studiare, non ne ho bisogno. Cosa dici, Natali? Ma chi c'è poco ma è sicuro. Allora, capita così. Capita, uno si laurea e sceglie la tesi che vuole e per prendersi un patentino del radioamatore uno si può scegliere come si dice, la materia che vuole. Ma non lo so qui, boh. Sarebbe bello, Gianfra. Però per la laurea, la tesi, diciamo, è così un riassunto, ma quello che contano alla fine poi quanti esami ha dato anche. Certamente sì, è ovvio, no? Si sa, la tesi è un riassunto in pratica, però anche quella deve sostenere, se non la fai bene gli esami valgono poco, dunque, per cui va bene, dai, comunque. Vai, Natali, vai. Vuole che un altro bambino in capo, vai. Mamma mia. Oh, mi sono contagiati, cosa devo riudire? E uno ha detto, cazzo, che io mi devo prendere la patente per parlare col vicino di casa. ognuno se la prende per parlare con chi vuole, per cui problemi non ce ne sono. Bobo, vabbè, dai. Ma di seconda mano le vendono, di seconda mano già fa? Non lo so quello. Più che altro so che le davano per stanchezza fisica, causa insistenza del candidato, anzi insistenza, perseveranza, vorrei dire. Era perseverante quello. E gli ho detto, ma li pare ingegnere che io mi devo prendere la patente per poter parlare col vicino di casa. E poi la patente con la AMI. E allora, la patente è proprio così. Oh, yeah. Vabbè, dai. Già va bene, tutto è bello ad avere. Adesso a parte gli scherzi, tutto è bello ad avere. Se uno è interessato, è giusto che si presenti e sostenga l'esame, poi quando sarà promosso sarà una grande soddisfazione, perché no? Va bene così. Le prendi già fra. Oh, ci sono anziani, ma anziani sul serio, che si prendono anche la laurea, c'è l'università per gli anziani, facciano, si può sempre di studiare, di interessarsi, eccetera, eccetera. Certo, uno potrebbe dire che non serve a niente, perché a quell'età, quando hai 80, 90 anni, non è che ti metti a fare il medico, a fare altre cose, però comunque è una soddisfazione, dai. Ecco. Avanti, ciao Roberto. Buonasera signore, ciao Giulio, ciao Gianfranco e ciao Natalino. Non so se ci sia qualche un altro. Ditemi voi, avanti Giulio. Ok Roberto. Stiamo vendendo patenti per radioamatori di seconda mano, te ne interessa qualcuna? Due me ne dai a me però, grazie, perché c'è un amico che forse anche lui la vuole. Facciamo così, vuol dire, anzi ti faremo anche lo sconto, guarda. Perché se ne compri due va bene, anche lo sconto. Vai Gianfra. Ciao Robè. No però Robè, non ti ha detto Giulio che devi dare l'esame di falegnameria, attenzione. Quello non te l'ha detto. Beh certo che sì, ma guarda che Roberto è già mezzo preparato, si sta arredando il camper, per cui almeno una bella infarinatura ce l'ha della falegnameria, cosa scrivi? Vero Robè? Hai detto bene, infarinatura, proprio toccando il punto giusto. Sì, allora io sono un maestro di infarinature. Ma più infarinato di tutti è lui, che capita, più infarinato di Roberto non ci può essere nessuno. A proposito, Roberto, sai che te lo volevo dire da qualche mese fa, quando era deceduto quell'amico mio, tuo parente, tuo zio, cosa era, Vincenzo, te lo volevo dire da tanto tempo, non mi sono mai ricordato. E che cosa? Che era morto Vincenzo. Ma sono già passati parecchi mesi, ma io te lo volevo sempre dire, ma non mi sono mai ricordato di dirtelo. Vabbè, tu già lo sapevi sicuramente. Sì, sì, sì, diciamo sarà morto, penso, 5 mesi, 6 mesi più o meno. Beh, sicuramente sì, forse qualche mese in più anche. Vabbè, poveretto, mi è dispiaciuto perché era una persona alla quale con me andava molto d'accordo, una persona brava, ci rispettavamo, per cui è andata così, è stato sfortunato, pazienza, dai. Vabbè, avanti Natalia. Ecco, via. Adesso io glielo dico all'ingegnere, ma io ho la di pubblica, non vale lo stesso come patente? Io penso di sì, però va diglielo. Capita, sicuramente guarda, ti vale, almeno qualcosa ti scoteranno. Vai Gianfra, vai, se non scherziamo stasera, oi! Sì, no, io la Repubblica me l'ho fatta togliere, io ce l'avevo anch'io, quel lavoro che facevo prima. Poi ho detto ma cosa mi ne offre, perché erano sempre molto più severi nelle revisioni. Insomma alla fine non mi metto a perfetta a guidare gli autobus, capito? Quindi avevo detto ma posso rinunciare? Sì, basta che metto la firma qua, ecco ti la firma, se ne è però. E infatti io quest'anno manco che mi scade il CQC, manco nel rinnovo, adesso come mi scade la patente gli dico a darmi la B. L'altra volta da per il CQC ho dovuto pagare 350 euro e un mese di scuola guida mi sono dovuto fare, però la stavo usando la patente, adesso non la uso e cosa me ne faccio? Mi faccio quella della macchina. Intanto fra un po' te l'avrebbero tolta, a 65 anni quella te la tolgo, per cui dopo 65 anni l'uomo non vale più, secondo loro, no? come guidatore di mezzi pesanti. Beh, Robè. Io chi ne vuole le patenti, ti do la patente nautica, il patentino del relatore e il patentino di perito, se ne volete. Ma non è quella che ho io. E la patente per portatore c'ho pure. No, io ho la patente per guidare la motozappa. E poi deve usare anche la pedivella lui. No, a spinte, senza pedivella. Ciao Giulio, Giulio lo sento, fuori nella veranda. Che sono a voi, ma non è vero. Allora devo passare il macchinino. Non devo essere la voce, non il macchinino. No, la mia voce è sempre quella normale, per cui non è come ti direte di giù. È il Mike Gay, che ha dato una piccola ritoccatina. Va bene, lascia tutto così. Buonasera a tutti, dai. Io sono Valvieri, che ho roba che sto preparando. Ma io già ne vedi, tanto vai a dire che vai, già ne vedi la patente. Ma io parto sempre dall'idea che uno per fare la remazione deve innanzitutto conoscere almeno un po' di inglese, senza togliere niente a nessuno. Perché se no fare una radioamatore tipo CB per parlare solo con l'Italia non c'è soddisfazione, questa è come la vedo io. Vai Gianfra. Qual è la questione d'opinioni? Non è che stai tutti i giorni parlando con gli stranieri, ecco. Anche se sono francese come lo stesso per dire. Ma non quello interessa specificatamente a chi fa. Attività di contest dedicate all'estero, ma il rianimatore guai a pensare che sia solo quello, sarebbe sbagliatissimo, perché puoi parare sulle frequenze alte, a livelli locali, non sono tanto facile, forse è anche più difficile di fare un contest. Sì, vabbè, quello sì, d'accordo, non ci sono dubbi, lo so, però sarebbe giusto per fare veramente un radioamatore a un certo livello, come si deve, bisognerebbe parlare anche in inglese. Io la penso in questo modo, poi ognuno la può pensare come crede, io sono coerente con le mie idee. Fai Natalia, aiuto, convinto di sì, io no. Giulio, dimmi. Ma che tu la cosa che hai visto il film di Alberto Sordi, un americano a Roma, quando è andato dentro il coso, nel campo di concentramento parlando in inglese, non hai sentito? No, io non l'ho sentito, perché io non lo so fischiare, dunque non lo capisco, se anche se lui l'ha parlato io non lo capisco, per cui l'ho venuto da là. Sì, ma il film, dico, l'hai visto, un americano a Roma? Sì, che l'avevo visto, ma quello è un altro discorso. Io preferivo Totò quando si è venduto la fontana di Trevi, per cui aspetta un po', preferivo Totò ad Alberto Sordi. Sì, vabbè, prenderei così, sono tutti e due mostri sacri del cinema. Vai Claudio, di nuovo a te. Vabbè, io sono un vai vieni, dai. Ma è così, ha ragione Giulio, cioè quando dici io sono radioamatore, essere radioamatore vuol dire saper fare veramente radioamatore, su questo già fa, io sono d'accordo, perché è così. Io sono radioamatore nella carta, l'ho sempre detto, io la patente me la sono presa non per fare radioamatore, ma bensì per detenere le radio e per parlare a livello locale. Se poi capitava qualche collegamento dove io riuscivo a farlo, lo facevo, se non me ne fottia niente. Però la realtà è quella, perché ricordiamoci sempre, Gianfra, senza offesa a nessuno, che radioamatori a Sassari sono sempre due, sono sempre due, a Sassari e forse in provincia di Sassari e forse anche tutto il nord di Sardegna, sono sempre due, e boh, due, io li conto sempre sul palmo della mano, due, e boh, che sanno parlare le lingue e che sanno fare i radioamatori, due, e boh, gli altri siamo solo radioamatori nella carta, e su questo non ci piove. Beh, io conosco radioamatori che invece sono radioamatori sulla tecnica, ce ne parecchi, ma bravi, che si sanno costruire anche gli apparati volendo. Quindi quelli non sono radioamatori secondo te? Sì, beh, la tecnica fa parte del radiantismo, però quello che ha detto Giulio io già l'ho capito. Sono d'accordo con lui, quindi è così. A me non è che. Non è che mi interessi più di tanto, io come vedi ho tutto ma non me ne frega niente, l'importante è che io abbia tutto, posso ascoltare tutto, posso ottenere tutto, quello è il mio scopo. Poi gli investimenti che ho fatto forse sono stati sbagliati, pazienza, ho perso quattrini e buchi, però è così. Avanti Tatalino, cambio. Natalino sta già studiando, non vuole perdere tempo. No, chiaramente è così, dai, secondo me è proprio così, a parte di costretta a offendere nessuno, per carità, non, io mi sono permesso anche di dire alcune volte che sì, tante persone hanno la patentina, da radioamatore, però io ho conosciuto diversi radioamatori e per conto mio non sono di essere radioamatori, ma non sono nemmeno CB ancora, senza offesa per nessuno, per cui io non ho peso sulla lingua, non devo niente a nessuno e parlo chiaro come parla Claudio, esattamente allo stesso modo, per cui forse l'ho preso da lui o lui l'ha preso da me, questo non lo so, però è una cosa che ci mette in sintonia, per cui vedo di continuare con la mia coerenza. Avanti Roberto. avanti, qualcuno ha commentato, avanti, chi è? Ho detto Black 30 Russi, Mr. Johnny, buona serata, ciao. Chi sei, non ho capito? Ciao Johnny, lo svizzero dalla Sardegna. Cazzo, qualcuno mi riconosce ancora, porca miseria, ho avuto tutti i problemi, ok Johnny, ciao, ben arrivato, non ti dimentichi mai della tua terra, ci fa piacere che tutte le volte che vieni entri a salutarci, io ti mando avanti gli amici che sono 4 mi sembra in tutto, avanti Gianfranco per Johnny, il grande emigrato. Sì, non so se mi senta neanche, io devo approfittarne perché mi stanno chiamando, perché c'è bisogno della mia opera. Riprendi Roberto, ci sentiamo dopo magari. E anche io dopo quelle voci del Sonny, già mi ricordo di te, ti ho sentito sempre nel periodo estivo, ti ascolto discretamente, sei Santiago Novo dalle mie parti, poi ti sentivo anche 9:10 sei arrivato, in che zona sei? Comunque Roberto da questa parte buonasera. Ciao no, però oggi penso che hai lanciato a me, saluti anche la mia che ti è staccato, mi puoi sentire, ben ascoltarti. E dopo un po' di tempo che non arrivi. Anzi, ti rivali, ti fai visto. A te il cambio familiare KK. Ti rilancio l'amico Claudio, Claudio c'è Giorni, avanti. Sì, ciao Giorni, buonasera Claudio Sparviero da Sassari, ciao, ben ascoltato. 5-8 arrivi qua in zona campagna. Molto bene, ma non è questione della lingua, la realtà io l'ho sempre detto, io parlo per me. Per carità, io ho fatto quello che dovevo fare perché mi sono sentito di farlo per la detenzione e l'uso, se le usavo, delle radio, poi non sono mai stato all'altezza di nessuno, però io radioamatori che conosco, ripeto e ribadisco, che sanno veramente fare radioamatori, sono solo due, poi gli altri, io parlo qua a Sassari, poi gli altri, non lo so, non mi interessa. Cambiamo discorso. Ok, avanti Natalino, se vuoi riprendere, se lo riprende Giulio. Sì, riprendo per salutarvi, dai, che io devo fare il solito tran tran. Già vi ascolto, rimango in ascolto io, dai, riprendi Giulio. Al limite ci sentiamo dopo. Ok, ciao, allora Natalino, alle prossime, ciao Gianfranco. No, non ho capito se hai chiuso o se si è rimasto all'ascolto. Va bene, faccio girare, avanti Giorni. Ah, non so se era Natalino e come era l'altro, mi ha sentato. Buona giornata e la buona serata. Sì, era Natalino che si è sentato in questo momento e l'altro era Gianfranco, che anche lui credo che si sia sentato, non so se rientra. Comunque, c'è Roberto, Claudio ed io, oltre a te, Giorni. Avanti Roberto. Sì, Giorni, volevo dire da che parte sei, che zona sei che trasmetti, Giorni? Zona Monteoro, un po' bassa, K. Sì, sì, quindi dovrebbe arrivare da vicino a Gianfranco, dovresti arrivare abbastanza bene perché lui in linea d'aria è il più vicino, almeno anche lui è in zona di Monteoro, a meno che non sei nel versante verso il mare, tu sei verso Sassari o verso il mare? Verso il mare, l'antenna un po' guada, KK. Ah, per quello che pensavo, infatti ha detto, sanno che a Monteoro qua arrivano tutti 9:30, 9:25, tu stai arrivando 9. Giulio sicuramente ti ascolta a bomboletta, quanto l'ascolti Giulio tu? Santiago 9, ma lui è in macchina, guarda, lui è in macchina, non pensare che abbia l'antenna da stazione fissa, lui è in macchina. Confermi Giuni? Caffa, una volta si ha detto no, c'ho un'antenna, la moto, proprio la piazza di Aniva. Però non ho grandi prestazioni, potrei andare sul tetto e vincere lì sicuramente. Però ho una buona posizione che va verso la Spagna. A te carissimo K. Ok Giorni, sì, ma mi ricordavo che era una situazione del genere più o meno, sì, che è equivalente a quella della macchina praticamente. Va bene, dai, comunque va bene lo stesso, ci sentiamo abbastanza bene, io ti sento Santiago 9, Radio 5 perfetto, per cui non c'è problema. Avanti Claudio. Figurati che qua arriva Santiago 8, quindi un segnale meno di voi che siete a Sassari. Giusto per capire la mia posizione, Santiago 8 Radio 5 arrivi, molto bene, non c'è problema. KK, allora devi andare Roberto. Io? Ehi, in girella devi andare. No, devo andare a casa di una persona che sta facendo un cancello, un'amica mia, si sta mettendo a fare delle cose e gli devo dare una mano a vedere come lo sta facendo. Ah, consulenza tecnica, già va bene, già va bene. Ok, avanti Giulio, riprendi. Ok, va bene, dai. Il campo l'avevi completato o Roberto? A proposito, non mi avevi mai detto se l'avevi completato. Sì, l'ultima volta che sono venuto lì mi hai fatto vedere qualcosa, ma non mi ricordo se mi avevi detto che l'avevi completato o meno. Sì, l'ho completato, sono andato poi a fare la revisione giovedì sera, convinto fosse tutto a posto, perché l'avevano fatto poco prima di consegnarmelo, più di due anni, poco prima di darmelo. Io l'ho preso a novembre, l'avevano fatto a maggio, di due anni fa, sono andato a provare i freni e la potere sinistra non frenava bene. Allora, sono entrato in officina, ho visto c'era un cilindretto che perdeva un po' di liquido e le garage consumate, anche se c'ha 110.000 km, probabilmente non le hanno mai cambiate. Allora, ho fatto tutto, ieri ho finito tutto e dovevo andare a fare la revisione stamattina, però ho detto lasciamo perdere, tanto non lo uso domenica, lo farò lunedì e vediamo un pochettino. Comunque quando arriva già te lo faccio vedere, ho fatto anche le rifiniture dell'arredamento interno, diciamo. Marella mi ha fatto le cose, mi ha messo i cuscini, me li ha foderati. Avanti di nuovo a te Giulio. Ok, hai fatto bene, Roberto, hai fatto bene, dai. Vabbè, quelle sono cose che capitano. Purtroppo quando si va in revisione, sarebbe il caso di dire prima al meccanico dammi una controllatina se tutto è a posto, che devo andare a fare la revisione, però. No, io ho fatto la revisione alla mia macchina, l'ho fatta la revisione da poco. A proposito, Roberto, tu mi devi dare a me una data per cortesia, che voglio portare la mia macchina per farmi i fari, pulire i fari. Già dall'anno scorso ne avevamo parlato, però poi col fatto della Covid non ci siamo visti più molto spesso, per cui mi devi dare una data, io te la porto, me la fai magari in giornata e dopo vengo a ritirarla, tutto lì o Roberto. Dimmelo tu, ti hai presente, me la devi portare la mattina presto, entro le 9, non più tardi, e te la devi ritirare la sera entro le 6 per l'essiccazione, perché noi non li uccidiamo, noi li raschiamo a fondo e li consumiamo, diciamo, tutto il prodotto vecchio che c'è sopra e poi vengono verniciati col trasparente per il policarbonato e ritornano come nuovi. E appunto, tu quando trovi una giornata che secondo te è fattibile questo discorso, tu mi fai uno squillo, io te la porto la macchina, te la lascio lì e dopodiché la sera vengo a ritirarla, niente di più, ma lascio a te la tua decisione, a me un giorno vale l'altro, non c'è problema, Roberto. Va bene, dai, facciamo girare intanto, avanti Giuni. Papà, a quanto pare che Roberto è un collega di lavoro, un collega, cordialmente tutti, ciao Giulio, ciao Roberto, ciao Giancarlo, Davino, devo andare fuori a cena con gli amici, è stato 34 ore cordialità, una passata, alla prossima, avanti a te Giulio K. Ehi, a te saluto, è stato un piacere di nuovo riascoltarti, ci troviamo sempre d'estate in qualche minuto. Sì, ma l'avevo detto che eri nell'altro settore, tu meccanica, mi sembra che eri nel campo meccanico, questo non è qua, campo della riparazione delle carrozzerie, comunque siamo lo stesso genere di settore più o meno. Avanti a te Giulio. Mi sei considerato che tutti gli anni me l'hai raccontato quello che generalmente fai. Bene, sono contento per te comunque di essere entrato, di averti salutato e di averti ascoltato con piacere. Avanti Roberto per l'amico Giunni. Saluta Gianni, ciao, scusa. Giulio, forse ti ho parlato sopra qualche pezzettino, non so se sei passato tu o io. Comunque risaluto di nuovo a Giunni, buon tutto e buon proseguo di serata. Anche io qualche minuto e poi vado via. Di nuovo a te Giulio. Sì, ma probabilmente già sentito, non lo so. Penso comunque vi saluto di nuovo Giunni, salutoni, grazie ancora per essere entrato a salutare Giunni. Sei un amico, tutte le volte che vieni qua in Sardegna ti fai sentire. Va bene così, sono contento per te e soprattutto di averti ascoltato. Avanti Claudio. Sì, ciao, vabbè, ci sentiamo, dai, un attimino che mi ero allontanato, alle prossime, già ci aggiorniamo lunedì. Avanti Giunni. No, è andato via Giuni, ho detto un paio di minuti ancora, e ho cambiato radio, se non ve ne siete accorti, questa è un'altra radio, probabilmente un po' più bassa di modulazione, comunque avanti a te di nuovo Giulio. Ok, vabbè, sì, vabbè, più bassa di modulazione va sempre utile, ma non c'è problema, serve alla grande, va benissimo alla grande come tutte le radio che hai, per cui non c'è problema, figura. Il lupo cambia il pelo ma non il vizio, nel senso che tutte le radio che hai sono una meglio dell'altra, per cui va bene così. Mi prendi pure, vabbè, dai, siamo rimasti io, tu e Claudio. Eia, però adesso è l'occasione per salutarvi, perché adesso mi hanno chiamato e devo andare via. Saluto di nuovo a Giulio, sempre piacere ascoltarti, idem Claudio. Ci vediamo spesso, non ci sono problemi, oltre alla radio ci sentiamo anche fisicamente. Fisicamente non pensiamo male, ci vediamo, no? Ci sentiamo di presto. Ciao di nuovo a tutti, ciao Claudio e ciao Giulio e eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio corretti, poi quando rientro, se c'è qualcuno, sarà un piacere riascoltarvi. Ciao ciao. Ciao ciao Roberto, no, l'intensità cambia, meno spinta, ma la tonalità è sempre quella, molto bella, te l'avevo già detto. Avanti Giulio, per i saluti a Roberto, ciao Roberto, già si aggiorniamo. Ok, ciao Roberto, alla prossima dai, decidi tu allora per quello che ti ho detto, quando vuoi, quando credi, non c'è problema, io non ne ho di prevalenza, o per un giorno o per l'altro, non me ne frega niente, per me va sempre bene. Tanto la macchina è sempre ferma qua, la uso pochissimo, per cui un giorno vale l'altro per me. Decidilo tu quando è possibile. Ciao Roberto, di nuovo alle prossime. Vai qua. Eia, ma io Roberto, mi sentite, prendo un appuntamento, io ci vado spesso da Roberto in settimana, quando scendo a Sassari a fare commissioni posso sempre trovarlo. Ero poi è forte, c'ha belle radio, belle, una più bella dell'altra. KK, Giorni è andato via. Sì, Giorni è andato via, poc'anzi ha salutato, per cui lui viene qua in ferie perché lui è residente in Svizzera, no? E dunque viene però a farsi le ferie in Sardegna, perché quanto è saldo, poi avrà sicuramente anche dei parenti qua. E beh, mi fa piacere, tutte le volte che viene si fa sentire, mi fa piacere veramente, va. Almeno se non altro rimandiamo sempre l'amicizia dei nostri conterranei. Bene, va. Così ho detto poc'anzi, non lo so, io a riguardo di quello che stavamo parlando inizialmente, io né più né meno ho la stessa tua idea a riguardo, per cui non cambio perché sono così, non, io una cosa quando la devo dire la dico chiaramente. Vabbè, è un discorso che se benissimo io non voglio affrontare perché non mi interessa più, però io condivido quello che hai detto, basta, e chiudo perché non sono cose che non mi interessano. Io penso a me e vado avanti per la mia strada, gli altri sono liberi di fare ciò che vogliono. A me va bene così. Mi spiace che ho vestito tanti di quei quattrini, sia in antenna e in radio, e poi alla fine non è servito a niente, adesso ne ho solo due, ho due HF, la banda DMR, sia in VU che in U, quindi la banda digitale, e poi quella normale in VU e in U, analogica, e va bene così, non ho altro, il resto ho dato tutto, non mi interessa. Non te ne pentire, perché intanto sono soldi che tu ti sei guadagnato lavorando, per cui hai fatto bene a comprarti quello che al momento ti faceva piacere, per cui non ti devi mai pentire. Quello che hai speso, l'hai speso per tua volontà e perché ti faceva piacere farlo, comprare eccetera. E la vita funziona in questo modo, è inutile fare delle cose e poi pentirti, no, assolutamente no. No, quello non sono d'accordo. Poi tu mi dai, hai ragione, hai speso un sacco di soldi, certo che hai ragione, perché non lo so. Ma questo è anche per ricordare una frase che una volta si era detta, che adesso io non voglio ripetere qui in frequenza, ma che tu mi capisci al volo quello che intendo dire, no? Al tuo riguardo, eccetera. Per cui non c'è problema. Devi andare nei due e ne hai fatto quello che hai voluto e avevi tutto il diritto di fare quello che volevi, per cui nessuno ti poteva dire No, assolutamente, no, non è che mi sono pentito, è che mi dispiace non aver insomma, ecco, ma va bene così lo stesso. No, e una l'ho venduta alla grande, la 3 elementi. La 5 elementi dei 6 metri è ancora a carbonati. È in mansarda, piegata, messa da una parte lì. Capito? Ci sono anche alcuni tubi che devo andare a prendere, ma non a Giovanna, già rimane in chivi, tanto non tocca nulla a nessuno. Vabbè. Vediamo un po', c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10. Non c'è nessuno, quanto sembra. Sì, vai così qua, ma il discorso è questo. Quello che hai, ce l'hai, e quando lo cerchi, vai, lo trovi e lo usi se ti fa piacere. Per cui, che problemi ci sono? Non è che hai perso proprio per niente. Anzi, è una tua soddisfazione che ti sei tolto e che continui anche ad averla. E per questo continua ad essere una tua soddisfazione. Sono fatto di avere le cose. Quando decidi, vai, prendi, piatti e usi. E per cui, che problemi ci sono? Assolutamente niente. Nessun pentimento qua. No, assolutamente no. Io quello che l'ho fatto con voglia di farlo, non è che mi sono pentito. Mi dispiace, ci ho buttato via un po' di denaro, ma non è che me ne sono pentito. Mi è servito ad imparare tante cose e basta. Va bene così. Come stavo dicendo, la radio come sta andando? Sei soddisfatto? Alla grande, perché se ne fosse qualcuno altro a guardare la tua, non ce n'è, claro, non ce n'è, ma da 40 anni li tabatti, però dico 40 per non dire 50 quasi, non ce n'è, è la migliore in assoluto. Gappa, questo è il gas, lo uso poco, quando ho rimontato il K, a volte uso il K, però adesso il K è spento, e tu dici che facciamo andare un po' il gas, c'è una quindicina di watt, va bene, è al massimo della potenza, il microfono è il 3+3, quindi già funziona bene, tanto, paghi su i TGV, fare due chiacchiere, ha voglia che basta e avanza. E direi proprio di sì, alla grande proprio, meglio di così non è possibile meglio di così, guarda, è veramente un'ottima radio, bella, chiara, pulita, forte, tutti i valori di questo mondo, no, non c'è problema. K dell'orgero, come dice qualcuno, non ho più sentito, questi giorni da un bel, non sento manco Massimiliano, sento nel 45 l'altro giorno, l'ho salutato, però qua non l'ho più sentito, beh, anche lui ha mollato, stanchezza e altre cose, e io vi aspetto un po' che cade il sole, pure esco a annaffiare il prato, che c'erano dei punti che non c'era l'erbetta, non messo i semi e tutte le sere devo annaffiare, se no non esce, poi devo annaffiatina le piante, che ci sono in giro, e poi c'è, non mi vai dalla televisione, prima parli, no, che Giulio mio, che non ti dico, mamma mia come sto, e non c'ho più niente da fare, mi ha montato le zanzariere, ho tutte siliconate, i montanti quelli a rullo sono arrivati mercoledì, piano piano me li ho piazzati, mi ho siliconato le finestre del Cavverio dell'inverno, sono sempre in vendi, non faccio più nulla da fare. Stai facendo qualcosa di molto ma molto importante, per cui non è quello il discorso. Piano piano, ce lo fai, sei lì, il tempo non ti manca, e quello che fai è per te, è per la tua famiglia, per cui meglio di così, è una grande soddisfazione quella, no? Quello che hai realizzato intanto era il tuo sogno, questo lo so benissimo, e allo stesso tempo è un tuo grande merito, per cui va bene lo stesso, va bene, si sa, il sacrificio c'è sempre, perché c'è sempre da fare, però senza niente non si può stare, senza niente stando seduto dalla poltrona al divano, dal divano alla poltrona non andrebbe nemmeno bene, almeno se non altro hai un momento di svago e soprattutto fai qualcosa di veramente utile che ti serve, visto che considerato così novellino come per la nuova casa, va? Si conferma, è proprio così, no, da fare già ce n'è. Stamattina mi ho lavato tutto il cancello, che era sporco da quell'acqua sporca che ha fatto, mi ho rasato un po' di erba dietro, ho lattellato tutto, ho pulito tutto il cavello, che io passo sempre la scopa dietro, non voglio ci sia polvere, anche perché il cane a volte va lì e si sdraia al fresco, quindi dopo me ne entra tutto in piovaraddo. Sto sempre facendo la verità, sempre facendo. Però, adesso vediamo. In vari sono finiti i travagli, qualche altra cosettina devo fare. Ah no, c'è da montare una porta, devo passare da Roberto a prenderla, che l'ho fatta arrivare lì. Una porta nell'androne, praticamente del cavello, perché c'è un po' di corrente, allora ho ordinato una porta e la devo piazzare. E poi mi pare, non ho giocato che fare. L'orto devo fare, cazzo, l'orto, cioè il mio vicino è cazzato meno perché la verdura me la dà lui, mi ha portato un sacco di verdura del suo orto, mi ha detto ma grande che te lo fai, lo do io. Guarda che sono cose molto belle quelle, e tanto quando ti serve una cosa vai e te la raccogli e ce l'hai, per dire, no? E poi sono cose molto belle, ti dovrebbe anche appassionare un fatto del genere, perché ripeto, essendo un novizio della campagna, per così dire, dunque tutte queste cose ti dovrebbero anche appassionare, almeno per il primo periodo, per il primo anno, insomma, più o meno. E così è, Ocra, no, vedrai che col tempo ti renderai conto, caspita, quanto ho fatto bene a fare quello che ho fatto, sicuramente te ne renderai conto, non tanto adesso, perché adesso magari sei anche un po' stanco, che stai sempre lavorando, ma più in là, quando avrai più tempo per riposarti, eccetera, eccetera, che ti siedi lì in veranda e respiri a pieni polmoni, aria pura, eccetera, te ne renderai conto, caspita, quanto ho fatto bene a fare quello che ho fatto, ne sono più che convinto che penserai così. Se non c'è la veranda già si respira, c'è il prato davanti, poi c'è tutta la campagna bella pulita, ordinata, abbiamo dato una passata del cespugliatore e trattore da poco col mio vicino, ci siamo allargati di 4 metri dai muri di recinzione per fare il frangifuoco, abbiamo fatto un bel lavoro, bene, poche robe, ma robe, pesciughe, siamo fatti a beffa. Ah, bello pulito, adesso stiamo decidendo, adesso questa settimana facciamo una riunione, siamo pochi e siamo in 6, quindi no, non c'è problema già, non so farremo, perché vogliamo asfaltare la strada, vediamo un po' se c'è qualcuno che ce la fa ad un prezzo buono e equo, la facciamo asfaltare, capito? Perché è abbastanza dura, però sollevi sempre polvere, non c'è niente da fare. Ecco, anche quella è una cosa ottimale, veramente, anche quella, essendo un piccolo condominio, vi mettete tutti insieme e fate qualcosa di molto importante, che prende valore anche la casa, prende valore, più cose fate più valore prende la casa, è ovvio, e oltre al fatto che è anche un bene per voi, quindi almeno non ritirate la polvere, è perché quando è asfaltata la strada rimane sempre pulita, al limite una passatina di scoppa è sempre pulita, ma quando c'è la polvere, insomma, perché la polvere si savola, anche se la casa può essere lontana da quella strada, però se lasci le finestre aperte ti ritrovi la polvere dentro casa, è quello, no, vabbè, già lontana la strada dall'ingresso di casa, però non riesco a tenere mai la macchina pulita, insomma, già l'ho lavata mio genero venerdì, facendo la schifo, detto la birra di Biua, l'ho capito, bella lucida, nero gomma e tutto, c'è ancora la carta nei tappeti, però esternamente adesso stanotte secondo che ora rientra mia figlia, si sono ancora sveglio perché al lavoro, è di chiusura oggi, ieri è rientrata che eravamo più delle due, se non rientra tardi stanotte deve una passata l'acqua con la spazzola attaccata alla pompa e le do una sciacquata, cioè domani mattina è bella fresca e pulita, capito? Solo per quello mi... Beh certo, no, ma non solo per quello, anche per avere un ingresso più bello, dai, diciamo, perché quando la strada è asfaltata ha un'altra importanza anche, non solamente solamente la campagna ma anche la casa, perché acquista importanza, è ovvio, per cui è meglio così, perché non è solamente che la macchina quando transita solleva la polvere, e quando supera vento anche, che la strada bianca la polvere se la solleva ugualmente, per cui se il soggetto magari assolverà più volte la macchina, lavarla più volte, mentre invece quando è asfaltata rimane sempre più pulita, non c'è problema. Oltre al fatto, ripeto ancora una volta, che prende valore anche la casa, oltre al terreno anche la casa. Sì, io adesso vediamo, la prossima settimana abbiamo deciso di vederci tutti e sei, ci riuniamo e vogliamo un po' discutere, di mettere qualche soldino per dare un po' di immagine dal cancello che c'è nell'ingresso della strada principale, da lì a me, allora sono io perché sono l'ultimo, sono 400 metri, quindi vediamo, bisogna consultare qualcuno che ci faccia un buon prezzo, vediamo cosa dobbiamo mettere, investiamo anche questi soldi, perché c'è già l'impianto dei lampioni, capito? Così mettiamo anche i lampioni e facciamo un po' di luce anche nella sala, perché la notte ognuno di noi lascia le luci che ci sono nel cancello accese per illuminare la strada, capito? Sia io sia... però queste cose sono da fare, vediamo un po'. Va bene. Certo che sì, e beh, così infatti che si dovrebbe fare, certo che sì, anche quando sono cose da fare, ma piano piano col tempo lo farete sicuramente, sono più che convinto che lo farete sicuramente. Poi se siete un piccolo condominio sarà anche facile mettersi d'accordo, trovate un asfaltista di quelli economici, diciamo, di quelli che lavorano bene, però a basso prezzo. Poi dipende anche da com'è la condizione della strada, se la strada è già bella spianata, se c'è una battuta abbastanza stabile o se è a fossi, dipende da mille cose. E il preventivo vi fate fare, chiaramente, loro vengono, guardano e poi vi diranno ci vuole tanto, eccetera, e poi voi decidete, no? È ovvio che così. Com'è la strada? In quali condizioni è? È bella compatta oppure ci sono dei fossi? Com'è? Bella tosta, non è così messa male, bella tosta, quando piove non si allaga neanche, l'acqua corre, è bella dura, vuole livellata naturalmente, perché ci sono un po' di insomma, non è tutta in piano, comunque livellandola col grader, ma passate il rullo e poi si asfalta, non penso 400 metri, insomma, il bitume è un bel caro, capito? È un bel caro il bitume, infatti dobbiamo decidere, cioè, o bitumarla o farla tutta a cemento, a cemento armato, capito? Tanto non passano mesi pesanti, sono la mia, carino, sono due macchine, due, quella di sì, sono tre, quattro, cinque macchine passano, non è che cinque macchine abbiamo in tutto. Certo. Sì, anche fatta da flori di cemento va benissimo lo stesso, certo che va bene, no, perché no? Ma addirittura vendono anche dei blocchi, vendono già in cemento, che hanno una grandezza di circa, non so, 50 cm, 50x30 più o meno. Io l'ho visto le case di ingresso così, con questi blocchi, che fanno tipo pavimento in poche parole, hanno uno spessore intorno ai 4-5 cm. Si può anche pavimentare con quel tipo di che sono eterne, non si rompono mai più, la strada non si rompe mai più, fatta in quel modo, va bene lo stesso, sempre se si risparmia, se no, certo se puoi risparmiare qualcosina, se poco, tanto vale fare asfaltata, è ovvio, no? Vai qua. Se tu consigli una bettomiera da 9 metri cubi, costa 700 euro, con 9 metri cubi ne fai un bel, fai che ce ne vogliano 4 bettomiere. Però 4 bettomiere sono 7x4 sono 28, sono 2800 euro, fai che ce ne vogliano 5 bettomiere, 5x7 sono 35, sono 3500 euro, siamo in 6, ma l'asfalto, il bitume, l'asfalto a 10 metri, vivo 1000 euro, 1000, quasi vuoi prendi, un po' di soldi costa, il bitume costa di più, quindi stiamo decidendo, non lo so, le gabbie di ferro, tutto, boh, ci vediamo, ci dobbiamo vedere, poi si deciderà cosa fare.